Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Noise Machine del titolo The Jumping Clown. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone si chiamava I Like It. Mi piace, mi piace. Quali impegni e idee attendono la vostra band per il futuro prossimo? Ci sono. Innanzitutto c'è un nuovo entusiasmo dato anche dal fatto che da poco abbiamo conglobato nel nostro team un nuovo management nella persona di Guido Angeli, che è alle mie spalle e non lo vedo ma sento che è dietro. Che non vuol dire che Mizzi ha dei gusti sono particolari. Sono seduto. Impegni, sicuramente la prospettiva di scrivere un nuovo album, speriamo che possa uscire poi nel 2011, visti i nostri tempi. Assolutamente sì. Magari poi saltano fuori quelle cose, capito, che in un attimo abbiamo scritto tutto. No, quello no, però Dario, che adesso ha finito di scrivere tutti i brani del nuovo The Cage che esce tra poco con Tony Martin, avrà finalmente anche più tempo da dedicare ai nostri pezzi. Certo. Sicuramente, secondo me, per se l'anno prossimo ci troviamo qua nello stesso giorno, te lo portiamo. Cioè. Va bene. Ora ascoltiamo quale canzone. Ora ascoltiamo Ready to Fight, che è il brano con cui apre il nostro disco. Il tempo scorre e noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete all'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radioracs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Grazie ai Noise Machine per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album. E da questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live. Sicuramente www.noisemachine.com, piuttosto che il gruppo Noise Machine Official Fan Club su Facebook. Mi manca qualcosa? Beh, sicuramente su iTunes si possono scaricare tutti i nostri brani. Piuttosto che prospettive live, proprio io direi in questa zona c'è la possibilità di quest'estate di fare il festival Castelbir di Castel Guglielmo, visto che siamo qui vicini, lo dico. Piuttosto che vediamo un attimo, voglio dire, il nostro Guido Angeli cosa ci trova come date live, Guido? Boh, nient'altro. Intanto grazie a Radio RCS. Se volete farci un favore, andate nei negozi di dischi e ordinate il disco dei Noise Machine. Guarda che Noise Machine si scrive con la Z, due parole staccate, Noise con la Z e poi Machine. Andate nei migliori negozi, anche nei peggiori, ovviamente non lo troverete il disco, perciò lo dovete ordinare, così gira un po' di più. Brano per chiudere questa puntata? Il brano si intitola See What Is Better, enjoy. Jean-Luc e Noise Machine vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo quando avremo in studio i Mantovani Anomia che ci presenteranno il loro primo disco di Beautiful. Ciao! Ciao Jean-Luc.